24, la storia. In che momento il professor Marco Biagi diventa un obiettivo strategico per l'organizzazione Brigate Rosse? Nel momento in cui il libro bianco per il lavoro diventa l'obiettivo, in quel momento anche il professor Marco Biagi, in quanto principale autore del libro bianco, diventa un obiettivo strategico. Ho ricevuto quest'estate alcune telefonate anonime, da cui si comprende facilmente che l'interlocutore è al corrente di alcune mie attività per il ministro, nonché dei miei spostamenti fisici. E mi ha detto: cosa devo fare? Devo mollare tutto proprio adesso? E io gli ho risposto: no, non potevo che rispondergli che doveva andare avanti. Marco Biagi, classe 1950, bolognese, sposato, due figli, socialista da giovane, giuslavorista di fama internazionale, riformista per vocazione, insegna diritto del lavoro all'Università di Modena e di Reggio Emilia. Oggi su Mix 24 vogliamo raccontare la storia di quest'uomo mite e determinato. È il 19 marzo del 2002. A Bologna Marco Biagi viene ucciso sotto casa da un commando di terroristi delle Brigate Rosse. Da allora Marina Orlandi, la moglie di Biagi, si è chiusa nel più assoluto riserbo. Solo in questa intervista ha accettato con noi di percorrere la vicenda umana e professionale del marito. Quella sera stavamo aspettando Marco per la cena. Avevo messo a bollire l'acqua della pasta, e quando mi hanno chiamata e sono scesa e c'era Marco riverso sotto al portico, la bicicletta rovesciata, la sua borsa con le sue carte per terra, le chiavi. Sono guardata attorno e ricordo che c'era un maresciallo dei carabinieri e tanti ragazzi, una decina di ragazzi che mi guardavano con occhi attoniti, soprattutto quando ho immediatamente detto: lo hanno ucciso. Maresciallo mi ha detto: ma chi è questa persona? Io ho detto: lo hanno ucciso le Brigate Rosse. Il pensiero comunque è andato quasi subito ai nostri figli, è andato a Francesco che doveva uscire di casa per andare a giocare a basket, è andato al piccolo che era in casa, che aspettava il suo babbo. E nelle parole di Marina Biagi lo avete sentito: lo shock, il dolore della perdita è un'immediata certezza. A uccidere Marco Biagi sono state le Brigate Rosse. La paura del resto a casa Biagi si è insinuata da tempo, e per l'esattezza dalla mattina del 20 maggio del 1999. Il 20 maggio del 99, io ricordo che ho acceso la TV e ho saputo dell'omicidio di Massimo D'Antona. Mi è crollato il mondo addosso, perché Marco era a Roma e all'epoca era consulente di Bassolino anche lui. L'ho chiamato immediatamente e l'ho supplicato di tornare a casa, ma lui mi ha detto che si sarebbe fermato a Roma altri due giorni perché voleva, d'accordo con Bassolino, continuare a finire il lavoro che D'Antona avrebbe dovuto presentare in quei giorni, per cui ho cominciato a temere per la sua vita. E da quella sera davvero sono cominciati tutti i timori. Con l'omicidio di Massimo D'Antona, le Brigate Rosse tornano a colpire dopo 11 anni. È un inquietante, inatteso ritorno del terrorismo. Ma come D'Antona, anche Biagi è un tecnico, un esperto di diritto del lavoro. Tra il 1999 e il 2000 è a Milano dove per rilanciare un mercato del lavoro in rapida trasformazione progetta un accordo innovativo tra le parti sociali. È il cosiddetto Patto di Milano. Milano, inverno 2000. Disoccupazione e microcriminalità dilagano soprattutto tra gli extracomunitari. Per contrastare il fenomeno, la giunta comunale di centrodestra pensa ad un accordo tra le parti sociali per facilitare le assunzioni. Il progetto è affidato al professor Marco Biagi. Ce ne parla Carlo Magri, allora assessore al lavoro del Comune di Milano. Lo scambio è lavoro, opportunità di lavoro e flessibilità. La flessibilità era data da questo contratto a termine di tipo soggettivo. Per la CGIL guidata da Cofferati questo patto non è da firmare. Quell'accordo è in deroga al contratto nazionale. Al patto per Milano presentato il 2 febbraio del 2000 aderiscono le altre principali sigle sindacali, la UIL e la CISL. La tensione però è altissima. Gli artefici dell'accordo entrano nel mirino dei terroristi. Così Michele Tiraboschi, giuslavorista, allievo di Marco Biagi. Si capì che l'obiettivo era sicuramente il sindacato riformista, la CISL, però non solo la CISL, anche il progettista, l'ideatore di questo percorso di riforme. Stamattina due ordigni su due finestre vicino all'ingresso della CISL di Milano potevano esplodere. La rivendicazione, spedita per posta elettronica da alcuni quotidiani, porta la firma del nucleo proletario rivoluzionario. 10 pagine, in testa la stella 5 punte delle Brigate Rosse. Molti riferimenti al mondo del lavoro, alle politiche della flessibilità, a quel patto per Milano stipulato da comune, imprese e parte dei sindacati per agevolare, con contratti meno costosi, le assunzioni di immigrati e disoccupati. Scusi, quant'è che all'interno dell'organizzazione Brigate Rosse avete iniziato a parlare per la prima volta dell'attività del professor Marco Biagi? Quando ha lavorato ha collaborato con il Comune di Milano nel patto per Milano, e lì per la prima volta sentiamo parlare del professor Biagi in quanto si era occupato dei temi contenuti nel patto. Dopo il patto di Milano dunque, Marco Biagi, che per l'opinione pubblica è uno sconosciuto, diventa invece un osservato speciale delle Brigate Rosse. Gli viene assegnata una scorta, ma la sua vita non cambia. Il professore continua a viaggiare tra Bologna, Milano e Roma e a dividersi tra la collaborazione con il Ministero del Lavoro e la cattedra dell'Università di Modena. Negli anni 90 Biagi si occupa di relazioni industriali e mercato del lavoro anche con uno sguardo rivolto all'Europa. Nel 1995 è Tiziano Treu a sceglierlo per la prima volta come consulente del Ministero del Lavoro del governo Dini. Poi, nel giugno 2000, quando si insedia il secondo governo Berlusconi, il professore arriva all'apice della sua carriera. Dopo 5 anni da consulente per 3 diversi esecutivi di centrosinistra, Biagi viene chiamato anche dal sottosegretario Maurizio Sacconi. Con Marco avevamo la comune militanza socialista e soprattutto da parte mia c'era una grande considerazione nel modo moderno con cui egli concepiva la regolazione del lavoro. La riforma del mercato del lavoro è una delle priorità del nuovo esecutivo e Biagi ha il compito di portarla avanti. Assieme all'importanza degli incarichi, però, per Biagi cresce anche il pericolo. Nell'estate del 2001 si registrano azioni dimostrative firmate da diverse sigle terroristiche. Il professore, già sotto scorta a Milano dopo l'attentato alla CISL, viene protetto anche a Modena, dove insegna, a Bologna, dove vive, e a Roma, dove si reca ogni settimana per le riunioni al Ministero del Lavoro. Così i timori dell'allora sottosegretario al Ministero del Lavoro, Maurizio Sacconi. Gli stessi che avevano ucciso D'Antona erano ancora a piede libero e che, come era accaduto con D'Antona, pulviscoli potevano condensarsi su un obiettivo debole. Anche se il suo ruolo lo espone a forti rischi, per il nuovo governo Berlusconi Marco Biagi è l'uomo giusto al posto giusto. Nell'estate del 2001 Biagi è impegnato nella riforma del mercato del lavoro, ma proprio mentre si appresta ad affrontare la sfida più difficile e rischiosa, a Roma gli viene revocata la scorta. Su Mix 24, con la storia di Marco Biagi, continuiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Caro Maurizio, consentimi di ricordarti di intervenire su quanti hanno revocato la mia tutela a Roma. Penso al prefetto, ma sarebbe meglio agire sul Ministero dell'Interno e spiegare chi sono, cosa ho fatto e cosa sto facendo. Bentornati a Mix24. Oggi stiamo raccontando la vita e il lavoro di Marco Biagi. Quello che avete ascoltato è il contenuto della mail che Marco Biagi scrive a Maurizio Sacconi, all'epoca sottosegretario al Ministero del Lavoro. È il 2 luglio del 2001. Il professor Biagi è uno degli uomini chiave del tentativo di riforma del mercato del lavoro del governo Berlusconi. Già nel mirino delle Brigate Rosse, dai tempi del Patto di Milano, a Marco Biagi viene revocata la scorta. Perché? Sentiamo ancora Maurizio Sacconi. Segnalammo in più occasioni questa preoccupazione, così come altri fecero, ma in quel momento l'opinione in sede tecnica non era così evidentemente convinta che vi fosse un pericolo immanente. Dalla lettera di Marco Biagi del 15 luglio 2001 all'allora presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Caro presidente, devo chiederti aiuto per la mia sicurezza personale. Il timore è che si ripeta con me un caso d'Antona. Ti lascio immaginare come possa vivere la mia famiglia. Mi piacerebbe parlarti per 10 minuti. Per me era anche una situazione molto delicata, perché il fatto che fosse mio amico non è che mi poteva indurre a fare pressioni oltre dovuto, perché io non avevo nessun tipo di titolarità, non ero il ministro dell'interno, ero il presidente della Camera, personalità autorevole della politica italiana, ma non è che spettasse a me una scelta così delicata come l'attribuzione o meno della scorta a una persona. Per cui feci una cosa che mi sembrò giusta sia nei confronti di Marco sia nei confronti delle istituzioni, e cioè quella di segnalare al capo della polizia Gianni De Gennaro, cosa che poi De Gennaro ha ricordato parlando con i magistrati, la situazione di Marco Biagi, chiedendo attenzione e verifica rispetto all'attribuzione della scorta, alla situazione della sua sicurezza. Era preoccupatissimo e naturalmente io con lui, perché gli stavano togliendo la protezione. Aveva scritto lettere chiedendo che gli fosse ripristinata e ogni sua richiesta era stata assolutamente ignorata. Tiziano Treu, ministro del lavoro dal 95 al 98, e poi la moglie di Marco Biagi, Marina Orlandi. E poi c'erano le minacce settimanali, io lo sentivo spesso, sia minacce a Bologna, in cui lo spiavano a casa, facevano arrivare messaggi alla famiglia, e sia a Roma, e quindi la preoccupazione era anche una preoccupazione concreta. Una sera, verso l'ora di cena, è squillato il telefono e Marco è andato a rispondere. Io ero accanto a lui e l'ho visto impallidire. Io gli ho chiesto ma chi era, e lui prima ha cercato di minimizzare, di dirmi nessuno, hanno sbagliato numero, ma mi sembrava troppo turbato e ho insistito per avere una risposta e mi disse appunto che lo avevano minacciato, che era una delle brutte telefonate che riceveva in quel periodo. Roma, 15 settembre 2001. Per far fronte alle nuove misure contro il terrorismo islamico, il Ministero dell'Interno taglia il 30% dei servizi di tutela e scorta. Tra il 19 settembre e il 3 ottobre a Biagi viene revocato il servizio di scorta, anche a Bologna, Modena e Milano. Il professore non ha più alcun tipo di protezione. Così lo stesso Biagi, il 23 settembre del 2001, scrive a Roberto Maroni, allora ministro del lavoro. Caro ministro, desidero informarla che oggi ho ricevuto un'altra telefonata minatoria da un anonimo che asseriva di essere a conoscenza dei miei viaggi a Roma senza protezione alcuna. Qualora dovesse malauguratamente occorrermi qualcosa, desidero si sappia che avevo informato inutilmente le autorità. Ovviamente non dipendeva da me e da noi la protezione di Marco Biagi. Io stesso non avevo la scorta e noi passammo sempre queste sue preoccupazioni preoccupazioni e queste sue e queste informazioni che uscivano al Ministero dell'Interno, a cui spettava la decisione sulla protezione e spetta la decisione sulla protezione delle persone. Un prefetto, un sottosegretario, un ministro e perfino il presidente della Camera. Marco Biagi, sempre più preoccupato, si appella a tutti i livelli istituzionali, ma non c'è niente da fare, viene lasciato solo e senza scorta. Ma ciò nonostante continua il suo lavoro. Su Mix 24, con la storia di Marco Biagi, continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Marco Biagi. Per far fronte alle nuove misure contro il terrorismo islamico, il Ministero è costretto a tagliare del 30% i servizi di tutela e di scorta. Biagi è senza protezione, è preoccupato, ma ciò nonostante continua il suo lavoro. Il 3 ottobre del 2001 viene presentato il Libro Bianco sul mercato del lavoro, un documento programmatico destinato a far discutere sindacati, partiti e società civile e soprattutto destinato a suscitare roventi polemiche. Presentato dal governo il 3 ottobre del 2001, il Libro Bianco è il primo passo di un articolato piano di riforme del mercato del lavoro. Queste le considerazioni del ministro Maroni e di Guglielmo Epifani, vice segretario generale della CGIL, dal 94 al 2002. Il concetto più forte era trasformare la rigidità del mercato del lavoro in una flessibilità, che non voleva dire precarietà, voleva dire mettere a disposizione dei giovani e dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro strumenti per entrare o essere riammessi nel mercato del lavoro stesso. Secondo noi si finiva per svuotare la contrattazione collettiva, per dare spazio a una contrattazione di tipo individuale, si riducevano una serie di diritti e si apriva la strada a forme di precarizzazione, anche se poi ovviamente è vero che non tutto il Libro Bianco poi diciamo si muove in quella direzione. La sfida, l'ambizione era quella di scrivere le regole del nuovo mercato del lavoro italiano, quello che Marco Biagi definiva il peggior mercato del lavoro europeo in Europa, perché escludeva invece che includere. Ma il punto più controverso diviene ben presto la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che impone di riassumere chi è stato licenziato senza giusta causa. Così Maurizio Sacconi e poi ancora Roberto Maroni. Marco era convinto che fosse un'anomalia italiana, come era un'anomalia e come è un'anomalia italiana. Era convinto che costituisse un freno alle nuove assunzioni. Si dice in Italia non si può licenziare, non è vero. Le imprese possono licenziare, lo prevedono le leggi e i contratti, ma per licenziare ci deve essere un motivo fondato. Quello che il governo offre alle imprese è la possibilità di licenziare senza giustificazione, cancellando l'articolo 18. Nel Libro Bianco l'articolo 18 era mezza pagina su 150 pagine, la CGIL si aggrappò a questo per contestare una riforma che invece era una riforma assolutamente necessaria e utile. Insorgo contro coloro che dicono che il governo presente ha fatto la proposta di cancellare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento. Ecco, è ora di smetterla con falsificazioni che offendono la dignità di noi studiosi, di voi professionisti, di coloro che usano il diritto del lavoro. Questo era Marco Biagi che parlava al 4° Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro nel novembre 2001. Sentiamo ora Michele Tiraboschi, allievo di Marco Biagi. Ci fu un'opera di mistificazione totale, era molto, diciamo così, deluso da attacchi in cui gli si imputava la volontà di liberalizzare i licenziamenti. Qui stiamo parlando soltanto ed esclusivamente delle conseguenze del licenziamento riconosciuto dal giudice o da un arbitro illegittimo. Stiamo discutendo di giustizia sostanziale. Marco era convinto che si dovesse quindi mantenere la reintegrazione nel posto di lavoro per il licenziamento discriminatorio, ma che il cosiddetto licenziamento senza giusta causa, senza giustificato motivo, dovesse essere sanzionato con un adeguato risarcimento al lavoratore. In molti casi, quando una persona viene licenziata, talvolta si arriva poi a un accordo tra lavoratore e impresa che va in questa direzione. Però se noi partiamo dal fatto che ci voglia un motivo valido per licenziare le persone, e se questo motivo valido non c'è, il giudice può ottenere un reintegro, noi partiamo da una condizione che dà un po' più di forza al lavoratore. Era Guglielmo Epifani. Reintegro o risarcimento economico per il lavoratore licenziato ingiustamente? Anche se il Libro Bianco è una proposta di riforma complessiva del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, è proprio sull'articolo 18 che si innesca un durissimo scontro politico. Nei mesi successivi il clima della discussione si esaspera. Il 23 febbraio del 2002 il segretario della CGIL Sergio Cofferati rilascia un'intervista alla stampa dai toni perentori in cui ribadisce un secco no a negoziare questioni come i licenziamenti. Né con il governo né tantomeno con le imprese, commentando nel merito le proposte sul tavolo, il segretario della CGIL sembra alludere proprio a Marco Biagi. L'autore delle proposte è tra gli estensori del Libro Bianco del governo. È membro del comitato scientifico di Confindustria. È il relatore che proporrà le modifiche al sistema contrattuale. Quando parlo di collateralismo tra esecutivo e Confindustria, non dico cose campate in aria. La situazione si fa di giorno in giorno più tesa. Così Stefano Parisi, all'epoca direttore generale di Confindustria, Roberto Maroni e Sergio Cofferati. C'era una tensione che derivava dalla CGIL e in particolar modo da Cofferati, che aveva un atteggiamento molto negativo, che commise un errore, concentrò su una persona l'attacco alle proposte del governo. Basta dire cose che non corrispondono al vero. Il professor Marco Biagi non è membro del comitato scientifico di Confindustria, non è collaterale a nessuno. Prendo atto che il professor Biagi non è membro del comitato scientifico di Confindustria. Io credo che poi gli elementi di collateralismo tra l'attuale governo e Confindustria siano identificabili nel merito e non dal ruolo che svolgono le persone. Basta accostare il Libro Bianco e il documento chiamato un po' pomposamente Manifesto per la competitività di Parma e ognuno di voi può vedere quali sono gli elementi di sostanziale convergenza. Qualche volta faccio notare addirittura i testi sono simili, ma questo capita quando c'è una buona frequentazione e ci si interpreta vicendevolmente. Marco Biagi finì subito nel mirino delle contestazioni da parte del sindacato e purtroppo non solo, perché era considerato un traditore. Era un uomo di sinistra che collaborava con un governo di centrodestra, in più con l'aggravante che il ministro era della Lega, per fare la, tra virgolette, controriforma del mercato del lavoro, tradendo quindi, dal loro punto di vista, i nobili ideali che devono muovere invece l'operato di un giuslavorista di sinistra. Raffigurare tutto questo come uno scontro tra la CGIL e Marco Biagi, onestamente, è privo di senso, perché non era Biagi che decideva, ammesso che tutte le cose che furono decise erano da lui condivise. Così Guglielmo Epifani. Sergio Cofferati, da noi ovviamente contattato, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. E naturalmente occorre ribadirlo, non c'è alcuna relazione tra le sue parole di quelle settimane e la decisione delle Brigate Rosse di colpire Biagi. D'altra parte è certo che Marco Biagi si trova, suo malgrado, al centro di un durissimo scontro politico. Per lui è il momento più difficile, ma è davvero così importante l'articolo 18 nella riforma Biagi? Così lo stesso Biagi in un discorso del 13 novembre del 2001. Perché non ho parlato del 18? Per una ragione molto semplice. Il Libro Bianco al 18 fa cenno, ma non lo considera un punto nevralgico, anche se traspare un orientamento favorevole ad una revisione. Basta trovare una via di mezzo sull'articolo 18, escogitare una sospensione, per esempio per i neoassunti del Sud, quindi un'ipotesi diversa da quella che ha formulato il governo, e credo che su questo punto anche la CGIL potrebbe ammettere una sperimentazione breve di un paio di anni. Suggerirei anche sperimentando insieme quanti posti di lavoro si creano. Questa che avete sentito è l'ultima intervista di Marco Biagi, rilasciata il 1 dicembre del 2001. Un'apertura al dialogo, la continua ricerca della soluzione, tipica di un riformista tenace, di un uomo cresciuto con la passione per lo studio, per la politica e abituato fin da piccolo ad affrontare le salite. Così lo ricordano la moglie Marina e Pier Ferdinando Casini, suo amico d'infanzia. Marco è nato a Bologna nel 1950. Il suo babbo Giorgio Biagi era stato sindaco di Lizzano prima e dopo la liberazione. È sempre stato un ragazzino a cui piacevano gli sport. Marco al liceo era uno studente brillante, si è iscritto al liceo classico, è diventato poco dopo il direttore del giornalino scolastico della RAN. Durante gli anni del liceo a Galvani non riuscivo proprio a ingranare al ginnasio col greco e il latino. Mio padre chiamò Marco, era allora universitario, e gli disse: senti, vieni se puoi a dare lezioni a mio figlio. E allora mi ricordo tanti pomeriggi passati con lui. In quegli anni aveva la tessera del PSI, tutti i sabati o quasi prendeva la 500 e andava a fare comizi nelle piazze dei paesi dell'Appennino. Quando tornava mi raccontava, molto autoironico, che il suo pubblico spesso era stato un pubblico di una decina di vecchietti seduti al bar del paese. Ci siamo conosciuti nel 1972. Io avevo 19 anni e Marco 21. Da allora non ci siamo più lasciati, abbiamo condiviso la passione per i viaggi e sport. Pomeriggio gli chiesi: ma tu a che cosa aspiri, che cosa vorresti fare da grande? Gli dissi proprio così. Lui mi rispose: i miei due desideri sono, il primo, insegnare alla Johns Hopkins un giorno, e l'altro è quello di poter un giorno entrare a far parte di una delle commissioni che stendono le nuove norme, commissioni ministeriali per la stesura di nuove norme. I sogni del giovane Marco Biagi si sono avverati, ma sarà proprio il secondo di quei sogni, la partecipazione al tavolo delle riforme, a segnare il suo destino. Le Brigate Rosse, che da tempo l'hanno messo nel mirino, si preparano a colpirlo. Ormai, privo della scorta, Biagi viene pedinato e spiato. È quella che gli stessi terroristi definiscono l'inchiesta preparatoria, realizzata con lo scopo di conoscere tutti i possibili movimenti e le abitudini della futura vittima. Ascoltiamolo. Si possono distinguere queste sequenze. A. L'uscita dall'abitazione. B. Il percorso per raggiungere il Dickinson College fino all'ingresso dell'istituto. C. Entrare all'interno e colpirlo negli uffici. D. Il momento dell'uscita, il percorso di allontanamento, il ritorno all'abitazione. Le condizioni generali e attuali del soggetto sono di un obiettivo senza protezione, che si sposta a piedi, sembra avere una certa regolarità nelle abitudini e in particolare nell'utilizzo della bicicletta. Altezza soggetto 1,75 e 1,78. Pantaloni scuri, camicia azzurra, cravatta blu a righe oblique bianche e giacca grigio chiara. Sbarbato e capelli ben tagliati. Aspetto giovanile, accento nordico e voce con tono alto, magro. Mascelle non pronunciate, viso minuto. Spostamenti, orari, abitudini, perfino l'abbigliamento di Marco Biagi oramai i terroristi sanno tutto. Ciò nonostante rimane privo di qualsiasi protezione. Ma davvero nessuno tra le forze dell'ordine e le istituzioni ha intuito il rischio che Biagi sta correndo? Ne parliamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24 con la storia di Marco Biagi. Mentre le Brigate Rosse perfezionano la loro inchiesta preliminare e sembrano ormai pronte a eseguire l'omicidio di Biagi, succede qualcosa qualcosa che l'induce ad accelerare i tempi. È il 14 marzo del 2002, le agenzie di stampa anticipano un inquietante scoop del settimanale Panorama. È la relazione semestrale dei servizi segreti che segnala una possibile ripresa dell'attività terroristica e i suoi obiettivi. Nel mirino dei nuovi interventi offensivi ci sono le personalità politiche, sindacali e imprenditoriali maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali e del mercato del lavoro, e segnatamente quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti. Così Maurizio Sacconi, allora sottosegretario del Ministero del Lavoro, ricorda quel momento. E poi ascoltiamo le parole della brigatista Cinzia Banelli nella deposizione al processo Biagi. Quella sera, quella la ricordo bene perché Maroni purtroppo era già partito, preparammo una richiesta di protezione per Marco, una richiesta formale, una richiesta anche un po' perentoria, se ricordo bene, per lui e per un altro consulente giuridico del ministro Maroni, che sarebbe stata sottoscritta a rientro del ministro. Comparve sul Panorama un servizio pochi giorni prima dell'omicidio del professor Biagi. Voi lo prendeste in considerazione? Noi lo leggemmo e pensammo che avrebbe potuto costituire un problema, perché gli elementi che venivano indicati questa relazione dei servizi segreti indicavano chiaramente una personalità uguale al professor Biagi. Questo ci fece pensare che sicuramente non si poteva più rinviare e anche fare attenzione quando lo avremmo agganciato che fosse solo, per capirsi. Eravamo a cena e abbiamo cominciato a parlare del fatto che non avesse la scorta. Io gli ho tirato fuori l'argomento per l'ennesima volta, mi ha detto: ma insomma, io che cosa posso fare? La scorta non me la danno. Ha avuto parole durissime nei confronti di quelli che non volevano dargliela. E poi mi ha detto: ma che cosa devo fare? Era come una domanda retorica, devo lasciare tutto? Adesso che per una serie di circostanze mi sono trovato nel momento giusto, al posto giusto per poter fare qualche cosa per il lavoro delle donne come sei tu, come te, dei ragazzi come i nostri figli, delle persone disabili nei confronti delle persone che hanno la mia età e che hanno perso il lavoro e hanno una famiglia come il nostro amico. E mi ha detto: cosa devo fare? Devo mollare tutto proprio adesso? E io gli ho risposto: no, non potevo che rispondergli che doveva andare avanti. È il racconto inedito dell'ultimo dialogo tra Marco Biagi e sua moglie, un confronto in cui alla paura e alla solitudine il professore oppone la forza dei suoi ideali riformisti, ma ormai a Biagi restano poche ore. Martedì 19 marzo 2002, ore 15. Marco Biagi è a Modena nello studio di Paola Gelmini, direttore amministrativo dell'università. Ore 18:30. Biagi lascia l'Ateneo e si reca in stazione per rientrare a Bologna. Così Rita Zaccariello, giudice per le udienze preliminari a Bologna. Il 19 marzo, nel pomeriggio, giungono a Bologna 5 brigatisti. Morandi e Galesi, che sono gli unici due componenti della squadra operativa offensiva. Galesi è quello che ha il compito di sparare, quello che porta con sé la stessa arma che ha ucciso il professor Massimo D'Antona a Roma nel 99. Oltre a loro giungono a Bologna 3 donne che hanno il compito di staffetta, cioè devono controllare, sorvegliare dalle vie limitrofe l'esecuzione dell'omicidio, e sono Cinzia Banelli, Nadia Desdemona Lioce e Diana Blefari Merazzi. Ore 19:41. Biagi arriva in stazione. recupera la bici, si avvia verso casa. Dal momento in cui Maria avvisa che il professor Biagi si sta avviando verso casa, le staffette prendono posizione nei loro punti già prestabiliti, che erano stati provati come punti migliori di osservazione. Il professore percorre via Indipendenza, piazza 8 Agosto, via Marsala, piazza San Martino. La Banelli va a prendere la posizione nel suo luogo di osservazione, che è in piazza San Martino all'angolo con via Marsala. La Lioce si dirige sempre in bicicletta verso in via del Carro. Galesi e Morandi si portano in via Valdonica, dove rimangono in attesa della vittima indossando un casco integrale. L'attesa dell'arrivo del soggetto potrebbe avvenire stando in piedi o seduti su qualche scalino vicino al portone. In alternativa, si potrebbe stare sul posto vicino al portone con un motorino e avere un casco. Ore 20:10. Marco Biagi è di fronte al portone di casa sua in via Valdonica 14. È possibile che la serratura faccia dei rumori nel momento in cui viene aperta. Verificare come si apre il portone e che rumore fa. All'avvicinamento del soggetto al portone, le forze si avvicinano e lo colpiscono. Sono scesa e c'era Marco riverso sotto al portico, la bicicletta rovesciata, la sua borsa con le sue carte per terra, le chiavi. Il maresciallo mi ha detto: ma chi è questa persona? Io ho detto: lo hanno ucciso le Brigate Rosse. Cosa c'è di più vile di aggredire una persona inerme, che è tornato da una giornata di lavoro, che sta appoggiato alla bicicletta e ha tirato fuori le chiavi di casa per aprire il portone? Io me lo sono chiesto, ma non ho trovato una risposta. Luigi Montuschi, il maestro di Marco Biagi, a questa domanda non ha saputo trovare una risposta. Un agguato vile e spietato. Biagi viene ucciso sotto casa dalla stessa arma che 3 anni prima ha freddato Massimo D'Antona. Per lo Stato è un colpo durissimo. Mentre magistrati e forze dell'ordine brancolano nel buio, divampano le polemiche. Quanto ha pesato il clima di scontro politico attorno a Biagi e perché il professore non era protetto? La lettera che segnala Marco Biagi tra i consulenti del Ministero del Lavoro a rischio attentato non sarà mai recapitata. Ascoltiamo le parole dell'allora ministro Maroni, di Guido Magnisi, avvocato della famiglia Biagi, e di Paola Gelmini, direttore della Fondazione Marco Biagi. Quella lettera mi venne portata per la firma il giorno stesso, se non ricordo male, in cui venne assassinato Marco Biagi. Io l'avevo firmata, solo che non arrivò al Ministero dell'Interno perché quella sera Marco Biagi venne assassinato. L'ora di chiusura del file, che è la risposta con la segnalazione nominativa di Marco Biagi, è la stessa ora dell'omicidio a Bologna. Per carità, coincidenza. Sì, non credo che se anche fosse arrivata il giorno prima sarebbe cambiato granché, perché non era appunto la prima volta che veniva segnalata la questione. E poi, dico, Panorama veniva letto anche non solo al Ministero del Welfare, ma ovunque, quindi la segnalazione di Panorama era all'attenzione degli organismi competenti. 20 marzo 2002, ore 21:55. A poco più di 24 ore dall'omicidio, una rivendicazione firmata Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, arriva contemporaneamente a 533 indirizzi di posta elettronica. Il giorno 19 marzo 2002, a Bologna, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione dello sfruttamento del lavoro salariato. 23 marzo. In 3 milioni accorrono alla manifestazione indetta dalla CGIL in difesa dell'articolo 18 e contro il terrorismo. Il discorso del segretario Sergio Cofferati si apre proprio con un ricordo di Marco Biagi. Il terrorismo è tornato a colpire. Il professor Marco Biagi era un uomo di cultura che aveva messo il suo sapere al servizio dello Stato. 28 giugno. Le polemiche non si placano. La Repubblica rende note 5 mail scritte da Biagi nell'estate del 2001. In quella indirizzata all'amico Stefano Parisi, il professore chiama in causa direttamente Cofferati. Voglio continuare a fare le cose che ci piacciono. ma non vorrei che le minacce di Cofferati, riferitemi da persona assolutamente attendibile nei miei confronti, venissero strumentalizzate da qualche criminale. Il giorno dopo, Cofferati replica nel corso di una tesissima conferenza stampa. Il contrattacco di Cofferati comincia così. Contro la CGIL, dice, è in atto un'inaudita campagna di calunnie. 30 giugno. Le mail di Biagi riaccendono anche le polemiche sulla mancata protezione al professore. Da Cipro, dove si trova per un incontro ufficiale, il ministro degli interni, Claudio Scajola, risponde alle critiche. Io ho risposto in Parlamento evidenziando in maniera molto cruda, direi anche molto coraggiosa, le disfunzioni di un sistema. Ma, ripeto, qualsiasi forma di tutela o di scorta è una protezione in più, ma non dobbiamo assolutamente credere che sia la risoluzione del problema, perché, ahimè, colpiranno ancora i terroristi. Più tardi, tuttavia, il ministro si lascia sfuggire un commento imbarazzante. Ai cronisti che gli chiedono come sia stato possibile trascurare i rischi corsi da una figura centrale nel dialogo sociale come Biagi, risponde: figura centrale Biagi? Fatevi dire da Maroni se era una figura centrale. Era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza. Marco Biagi non era affatto un rompicoglioni, era una persona seria, una persona mite, una persona che non prevaricava mai, una persona di grande competenza, ma uno assolutamente tenace, che difendeva le sue idee davanti a tutti e non aveva paura del confronto. Il 3 luglio, travolto dalle polemiche, Scajola è costretto a dimettersi. Le mie parole, isolate dal contesto, le mie parole ingigantite, hanno offeso la famiglia. Io di questo intendo chiedere scusa. Le polemiche sulla morte di Biagi, insomma, rischiano di distogliere l'attenzione dal vero problema, il rinnovato attacco allo Stato da parte dei terroristi. Ma chi sono le nuove Brigate Rosse? Su Mix 24 torniamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Per indagare sull'omicidio di Marco Biagi, magistratura e forze dell'ordine decidono di costituire uno speciale gruppo investigativo. Il lavoro appare subito lungo e complesso. Non viene trascurato nessun dettaglio, eppure i risultati tardano ad arrivare. Poi la mattina del 2 marzo 2003, tutto cambia. 2 marzo 2003. Nel corso di un controllo di routine sull'interregionale Roma-Firenze, tre agenti della polizia ferroviaria si imbattono in una coppia di passeggeri sospetti. Sono Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, i presunti capi delle nuove Brigate Rosse. Scoppia un conflitto a fuoco. Galesi è ferito a morte. La Lioce viene arrestata. La sparatoria provoca due feriti tra le forze dell'ordine e costa la vita al sovrintendente Emanuele Petri. Al coraggio degli agenti della polizia ferroviaria e al sacrificio dell'agente Petri si deve dunque la cattura dei vertici delle nuove Brigate Rosse. Anche se subito dopo il suo arresto, Maria Desdemona Lioce si chiude in un mutismo assoluto. Il materiale sequestrato ai due brigatisti segna una svolta decisiva per le indagini. L'attenzione degli investigatori va subito ai due computer palmari sequestrati ai brigatisti. Ce ne parlano Rita Zaccariello, giudice a Bologna, Vittorio Rizzi, responsabile gruppo investigativo Biagi, e Lamberto Giannini, dirigente della Digos a Roma. Gli inquirenti riescono a porre attenzione a quello che poteva sembrare un dettaglio assolutamente trascurabile. Cioè, Nada Desdemona Lioce ha nel proprio portafogli un bigliettino pubblicitario di una ditta che è la Grafocard Strabilia di Roma. Uno di questi due palmari, quello vuoto, era stato portato a riparare. C'era una scheda cliente, come spesso accade, dove c'era un nome fittizio, dove c'era una data di consegna e dove il commerciante ha chiesto al cliente di lasciare un recapito telefonico per essere avvisato. La Lioce ha lasciato come recapito presso la Grafocard Strabilia un numero di telefono cellulare che ha come ultime cifre 955. Questo numero era attivo all'epoca del delitto d'Antona ed era stato utilizzato per fare l'inchiesta, per vedere tutti i movimenti del professor D'Antona e quindi preparare l'agguato nei suoi confronti. È Lamberto Giannini, dirigente della Digos di Roma. Ed è proprio quel numero a permettere agli investigatori di ricostruire il sistema di comunicazione dei terroristi e di individuare la lista dei sospetti. Non resta allora che entrare in azione. Roma, 23 ottobre 2003. Ore 22:30. Ancora Lamberto Giannini della Digos. Andammo di notte, organizzammo questa cosa col dottor Gabrielli, la dottoressa Ventisona, con la prudenza più assoluta, anche con il timore che potesse capitare qualche cosa. Il blitz delle forze dell'ordine si protrae per oltre 48 ore. Vengono arrestati 7 sospetti brigatisti, tra loro Cinzia Banelli e Roberto Morandi. Finisce in manette anche Marco Mezzasalma, considerato il custode dell'archivio dell'organizzazione. Un materiale indispensabile per provare le accuse contro i fermati e spostato pochi giorni prima dai brigatisti con un frettoloso trasloco. Al termine di un'estenuante ricerca, l'obiettivo viene individuato. Ce ne parlano Lamberto Giannini, della Digos, e Vittorio Rizzi, responsabile gruppo investigativo Biagi. Abbiamo fatto irruzione, era una cantina piena di casse, la prima che abbiamo aperto c'erano due bombe a mano e dei pezzi di una divisa, abbiamo capito che eravamo nel covo. È stato trovato il computer utilizzato per la rivendicazione e sono stati trovati i telefoni cellulari utilizzati per... è stato trovato materiale documentale, sono state trovate rivendicazioni. Troviamo il volantino originale della rivendicazione dell'omicidio del professor Biagi. L'operazione è un colpo al cuore delle nuove Brigate Rosse. Ancora pochi giorni e anche l'ultima terrorista ricercata cade nella rete degli investigatori. E Diana Blefari Melazzi, la donna che ha aiutato Mezzasalma a trasferire l'archivio dell'organizzazione. A questo punto magistrati e forze dell'ordine possono fare piena luce sull'omicidio di Marco Biagi e sulle cosiddette nuove Brigate Rosse. Bologna, 7 febbraio 2005. Si apre il processo di primo grado. I principali imputati sono Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi e Marco Mezzasalma. Ad eccezione della Lioce, ricercata dal 95, sono tutti insospettabili, incensurati dalla vita apparentemente normale. Un tecnico radiologo, un edicolante, un tecnico di laboratorio. Viva le Brigate Rosse! 21 febbraio 2005. Depone in videoconferenza Cinzia Banelli, una delle staffette che ha preso parte all'omicidio Biagi, da pochi mesi divenuta collaboratrice di giustizia. Intendo rispondere alle domande. Dopo aver ricostruito le fasi salienti dell'agguato del 19 marzo 2002, la Banelli dichiara: se avesse avuto una scorta non avremmo potuto certo ucciderlo. Ma lei che intende per scorta? Intendo una scorta armata. Per noi già due persone armate cominciavano a costituire un problema, perché i militanti della nostra organizzazione non erano abituati a sparare o ai conflitti a fuoco, quindi... Il 1 giugno del 2005 la Corte d'Assise di Bologna condanna all'ergastolo tutti gli imputati a eccezione di Simone Boccaccini, condannato a 21 anni, e di Cinzia Banelli, processata con rito abbreviato e attualmente sotto programma di protezione. Le parole della pentita, tuttavia, fanno scalpore. Se Biagi avesse avuto una scorta, dice la terrorista, le Brigate Rosse non lo avrebbero colpito. E allora perché Biagi è rimasto senza scorta? E perché le sue disperate richieste sono rimaste inascoltate? Già dalla primavera del 2002 la Procura della Repubblica di Bologna apre un fascicolo sulla mancata protezione di Marco Biagi. Così commenta Enrico De Nicola, allora procuratore capo di Bologna. C'erano state omissioni, errori enormi da parte di tutti coloro che avevano agito. Gli indagati sono 4. A Bologna il questore romano Argenio e il prefetto Sergio Iovino. A Roma Stefano Berrettoni e Carlo De Stefano, dirigenti dell'antiterrorismo. L'ipotesi di reato è cooperazione in omicidio colposo. Secondo la procura, la revoca delle protezioni a Biagi è il frutto di una serie di errori e disfunzioni. Bastava che uno confrontasse le attività di Biagi e le rivendicazioni che venivano fatte per i vari attentati che erano avvenuti, per rendersi conto che veramente, non so, chiunque avrebbe detto: questo uomo deve essere tutelato. Le telefonate anonime ricevute da Biagi sarebbero state sufficienti per ottenere di nuovo una scorta. Malgrado le denunce del professore, però, nell'estate del 2001 non se ne trova traccia. Solo dopo l'omicidio la procura scopre che i tabulati forniti dalla Telecom sono incompleti. Nel concludere il proprio lavoro, tuttavia, la procura non individua una responsabilità penale da parte dei singoli funzionari indagati. Il 30 giugno 2003 la procura chiede l'archiviazione del caso per mancanza dell'elemento psicologico del reato. La revoca della protezione di Biagi, insomma, è stato un errore fatale, ma un errore senza colpa. Quando una persona come Biagi muore colpito dalle Brigate Rosse, in questo modo è chiaro che lo Stato deve fare un'autocritica. Davanti ai suoi figli in particolare, davanti alla sua famiglia, davanti a sua moglie, penso che tutti dobbiamo fare autocritica, tutti noi. Noi che rappresentiamo in misura diversa lo Stato, dobbiamo fare un'autocritica seria, perché lo Stato ha lasciato solo Marco Biagi. La legge 14 febbraio 2003 numero 30 delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro è stata ribattezzata legge Biagi. L'articolo 18 crea ancora oggi accesi dibattiti. Il 16 novembre 2006 a Modena è stata inaugurata la Fondazione Marco Biagi.